piano sostituto della diavolina per l'accensione del fuoco. Informazioni ordinate sacrificate per il calore del cammino. Il calore, uno dei molteplici sintomi del cosiddetto affetto, assieme alla certezza di essere protetto, importante per altre persone, di averle sempre a disposizione per svuotarsi, riempirsi, vantarsi, capirsi, catarsi o pissing. Ma queste definizioni diventano emissioni di fiato, come direbbero Scellino. Informazioni ordinate sacrificate per il calore del nostro cammino.